Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, comunque vado a finire col referendum di domenica prossima. Entreremo in una nuova fase che potrà dare una svolta, di cui per ora non possiamo prevedere né la portata né la direzione, alla politica italiana. E allora, anche per prepararci a quello che ci aspetta, forse è bene comprendere ciò che siamo diventati, e da questo punto di vista è utile la lettura del libro che adesso vi propongo, quello di Ernesto Galli della Loggia, che è uno storico nonché noto editorialista del Corriere della Sera, che ha scritto Credere, tradire, vivere, un viaggio negli anni della Repubblica, Il Mulino, 356 pagine, 24 euro. Questo libro è una riflessione anche autobiografica sull'evoluzione del dibattito politico nel nostro paese. Non troverete qui la storia della Prima e della Seconda Repubblica, ma la descrizione di alcuni nodi che hanno dominato la sua evoluzione o mancata evoluzione. Galli della Loggia nasce in una famiglia liberale, moderata, da giovane passa a sinistra, si iscrive al Partito Socialista, ma sente da subito il fascino del Partito Comunista, che si presenta allora soprattutto alle giovani generazioni come l'unico partito veramente moderno, nonché capace di dare alla militanza un'immagine, un significato quasi religioso. E naturalmente in questa modernità c'entra pure l'opposizione alla Democrazia Cristiana, espressione, scrive l'autore, di un'antropologia negativa fin quasi alla ripugnanza. Poi lentamente la svolta, alla quale assicurò un'accelerazione drammatica l'ascesa di Craxi, che mise a nudo la contrapposizione possibile al Partito Comunista da parte di una sinistra effettivamente moderna e certamente non comunista, e anzi capace di denunciare a gran voce gli orrori del comunismo realizzato, letti sempre in Italia con un'alzata di spalle come espressione di un inguaribile e inaccettabile anticomunismo. Naturalmente Craxi ebbe tutti i suoi limiti, che esplosero poi con la questione morale, la quale a sua volta riuscì a diventare, come scrive l'autore, il principale elemento di saldatura tra la tradizionale sinistra di origine del Partito Comunista, che in qualche modo ancora possedeva o credeva di possedere un connotato di classe, e larghi settori eterogenei costituiti sia da cattolici sia da laici, per lo più di sinistra, ma anche di più o meno lontane origini di destra. E qua Galli della Loggia fa i nomi di Scalfaro e Antonio Di Pietro, e aggiunge, producendo così un radicale rimodellamento della sinistra stessa, la quale perdeva via via l'insieme dei suoi connotati storici e di fatto veniva a fare sempre più tutt'uno con lo schieramento anti-berlusconiano puro e semplice, tenuto insieme dalla questione morale, appunto. Oggi siamo arrivati in una fase la quale sembra volere potere fare a meno di qualunque passato, addirittura sul punto di troncare ogni rapporto con esso. Allora sentiamo dall'autore l'importanza di questo rapporto con il passato della politica e della storia italiana. Buonasera a Ernesto Galli della Loggia. Buonasera. Ernesto Galli della Loggia, lei denuncia nelle prime righe del suo libro la sindrome per cui in Italia cambiare vuol dire tradire, cambiare perciò tradire, o meglio essere accusati di farlo a causa per l'appunto dell'essere cambiati. Però poi aggiunge il fatto che in una democrazia normale, per così dire, cambiare idea, cambiare orientamento non è peccato. Allora perché solo da noi c'è questa sindrome? Perché da noi il cambiare idea diventa un segno di tradimento? Beh, perché direi da noi più che non qualunque quasi altra parte d'Europa, la politica è diventata un segno di identità, le opinioni politiche di ciascuno sono diventate un segno di identità quasi indelebile, per cui cambiare opinione, che significa appunto cambiare opinione politica, quasi sempre di questo stiamo parlando, e diventa appunto come una forma di rifiuto, di rinnegamento della propria identità, un vero e proprio tradimento. Non viene ritenuto normale cambiare idee politiche, dato che cambia il mondo intorno a noi, no. Dato che la politica è una parte costitutiva della nostra identità, significa appunto una cosa molto più drammatica e radicale, come tale viene considerata tradizionalmente, perlomeno appunto nell'Italia repubblicana, dove appunto le identità politiche sono state così forti, così radicate e ritenute così decisive per l'opinione che ci si fa delle persone. E questo aspetto si è poi strettamente legato, come lei spiega, anche per un lungo periodo della storia d'Italia, anche recente, come possiamo chiamarla, con la tradizione del moralismo, per cui il moralismo congenito dell'opposizione italiana, come lei scrive. Che cosa ha rappresentato questo aspetto? Beh, rappresenta appunto il fatto che la risposta al cambiamento, visto in questa luce che dicevo prima, non può che essere la condanna morale, il giudizio severo sulla appunto, come dire, l'abilità delle opinioni e delle identità. Cambiare opinioni politiche viene sentito come, come dire, cambiare il nome, rifiutare i propri genitori, la propria ascendenza familiare, e quindi come una cosa che va sanzionata con, moralmente. Il moralismo è figlio della importanza radicale e decisiva che viene data alla identità politica. In questo aspetto si distinse in particolare il Partito Comunista, con grande successo possiamo dire. Quanto ha pesato questo nella mancata evoluzione del Partito Comunista? Ma io credo che abbia pesato molto, forse ha pesato non soltanto, anzi sicuramente direi, ha pesato non soltanto sugli iscritti al Partito Comunista, ma tutto quel vasto mondo intellettuale che italiano che comunista non era, anzi si professava generalmente così di opinioni liberal-democratiche e socialiste, ma che però da un certo momento in poi della nostra storia, diciamo dalla metà degli anni 60, è stato fortissimamente condizionato dal giudizio che di quel mondo stesso e dei suoi appartenenti dava il Partito Comunista. Questo ha molto condizionato la possibilità di, diciamo così, cambiare idee, di maturare opinioni diverse da quelle precedenti e quindi di aiutare il sistema a cambiare. E a proposito di questa sinistra non comunista che a un certo punto appunto passa armi e bagagli sostanzialmente col Partito Comunista, lei nota che in questo atteggiamento c'era anche una sorta di ribellismo di fondo che rimase una costante dominante soprattutto dopo il 68 nel nostro paese. Quanto conta questo aspetto? Sì, non direi passa armi e bagagli, direi, diciamo così, in qualche modo si mette in una condizione di non voler dispiacere al Partito Comunista, di non passare Dio ne guardi per anticomunista, che è un po' diverso direi. Beh, ha contato senz'altro molto questo atteggiamento, perché ha creato un'opinione vastissima, diffusa, che era, diciamo così, tendenzialmente contraria, anzi non tendenzialmente, decisamente contraria, ostile a qualsiasi forma di cambiamento, di evoluzione del quadro politico che dispiacesse in sostanza, che dispiacesse alla sinistra comunista. Quindi è stato un dato molto, molto rilevante, direi. Come spiegavo prima, in questo libro c'è anche un aspetto autobiografico e non sono frequentissime in Italia le svolte come quella che lei descrive di se stesso. Si sente un isolato, si sente una figura particolare in questa evoluzione che c'è stata da parte di qualche intellettuale italiano? No, veramente no, non mi sento un isolato, non mi sono mai sentito una vittima, per esempio. No, personalmente penso, ho trovato sempre molte persone, diciamo così, che avevano più o meno le mie stesse opinioni, anche l'itinerario biografico più o meno, e direi che sulla scena pubblica italiana non sono state poi negli ultimi 30 anni, diciamo così, non sono state pochissime le figure che avevano un itinerario di mutamento, che erano passati appunto attraverso l'esperienza della sinistra, magari la sinistra più estrema, più radicale, extraparlamentare, che però poi sono approdate a posizioni diverse. Faccio un nome per tutti, di una persona appunto che non c'è più, ahimè, che è quello di Lucio Colletti, la cui appunto, che era un filosofo, un teorico del marxismo, iscritto al Partito Comunista, quindi una persona di fortissima identità di sinistra comunista, che a un certo punto fece una svolta radicale e drammatica con la famosa intervista filosofica, storico-filosofica, sai, si chiama politico-filosofica, del 75, e beh, insomma, non saprei immaginare, e con un enorme, vastissimo eco, Quindi no, casi del genere ci sono stati, anche se naturalmente la sinistra comunista, la sinistra influenzata dal Partito Comunista, ha sempre cercato di contenere questi fenomeni di cambiamento, di mutamento, di stigmatizzarli, di anche, diciamo così, di demonizzarli, diciamo. Abbiamo parlato del moralismo, la questione morale a un certo punto diventa una vera e propria arma di battaglia politica e anche di identità politica. Anche questo probabilmente ha ritardato l'evoluzione della politica italiana. Beh, sì, ha ritardato l'evoluzione del Partito Comunista, perché la questione morale a un certo punto è diventato il vero programma di fatto, il vero programma politico di un partito, il Partito Comunista, che vedeva ogni giorno di più sgretolarsi la propria base ideologica, storica, ed era alla ricerca di qualcosa da sostituire. L'ha trovata per una intuizione che bisogna definire politicamente geniale di Berlinguer, l'ha trovata nella questione morale, che è diventata ed è rimasta poi, anche dopo la morte di Berlinguer, dopo la fine del Partito Comunista, è rimasta in qualche modo la bandiera simbolo che è in grado ancora oggi di riunire intorno a sé tutte le sparse, molto diverse schiere del popolo di sinistra. Lei definisce, concludendo il suo libro, il presente come il tempo che sembra volere poter fare a meno di qualunque passato, addirittura sul punto di troncare ogni rapporto con esso. Quanto è importante recuperare questo rapporto col passato? Io penso che sia decisivo. Decisivo se gli italiani, ma direi per esempio gli europei in genere, vogliono continuare ad avere, come dire, innanzitutto un'identità. Chi non ha un passato alle spalle non riesce ad avere alcuna identità, quindi non riesce neanche ad avere alcuna visione politica del proprio destino e del proprio futuro. Credo che uno degli elementi fondamentali della crisi in cui si dibatte l'Europa e tutte le sue classi dirigenti sia anche questo distacco dal passato, determinato in parte significativa dalla crisi, dal crollo direi, del nostro sistema di istruzione. Certo, e poi anche altri aspetti, per esempio anche i valori religiosi, i vincoli sociali. Certo, sì, diciamo sì, tutto quanto quello che apparteneva alla tradizione, che appartiene alla tradizione, viene sentito come destinato ad una ineluttabile obsolescenza, qualcosa di cui liberarsi perché è un fardello che ci appesantisce inutilmente. Viceversa, appunto, è un alimento la tradizione. Questo non significa dover soggiacere alla tradizione e continuare a fare quello che si è sempre fatto. No, ma però diciamo così, la tradizione serve in qualche modo a restare se stessi, il che io credo sia importante. Grazie Ernesto Galli della Loggia, autore di Credere, Tradire, Vivere. Buona serata. Buona serata a lei. E il tradimento in politico, nella politica italiana, ritroviamo nel libro di Filippo Maria Battaglia e Paolo Voltaire, che sono entrambi giornalisti e hanno scritto Bisogna saper perdere, sconfitte, congiure e tradimenti in politica, da De Gasperi a Renzi. È pubblicato da Bollati Boringhieri, 164 pagine, 12 euro. Qui troviamo invece una vera e propria storia della Repubblica, sintetizzati in 12 momenti particolarmente significativi, a partire dalla caduta del governo Parri nel 1945 fino alle ultime elezioni politiche, quelle della non vittoria di Bersani. Saper perdere, scrivono gli autori, spesso conta molto di più di vincere, e la sconfitta, come dimostrano molte vicende internazionali, più della vittoria, riesce a dare il segno di maturità di una democrazia. Troviamo in questo libro la reazione alle sconfitte da parte di molti leader, dal re Umberto II sconfitto al referendum, allo stesso Parri, a De Gasperi, fino a Veltroni, Monti e Berlusconi, aprono uno squarcio sulla psicologia del potere e sul funzionamento della politica italiana, che in questo forse non è molto cambiata dalle sue origini. E con questo ci interrompiamo per un attimo e riprendiamo fra pochi istanti. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Vi segnalo un'importante mostra che è in corso a Milano, al MUDE, che sarà aperta fino al 26 febbraio del 2017, curata da Jeffrey Deitch e Gianni Mercurio, e dedicata a Basquiat, il leggendario artista di strada che diventò un mito nell'arte di New York e di tutto il mondo grazie anche all'appoggio di Andy Warhol, alla mostra organizzata da 24 Ore Cultura, che appartiene all'editore di questa radio. E Basquiat ebbe una vita intensissima, era nato nel 1960, sarebbe morto nel 1988 per un overdose, e a questa artista maledetto dedica una biografia Michel Nourisdani, uno scrittore e critico d'arte francese, che si intitola Basquiat, la regalità, l'eroismo e la strada, tradotto da Ximena Rodriguez Bradford per Joanne Levy. A questo artista maledetto dedica una biografia Michel Nourisdani, Si intitola Basquiat, la regalità, l'eroismo e la strada, è pubblicato da Joan E. Levy ed è tradotto da Ximona Rodriguez Bradford. L'autore qui ricostruisce la vita di questo artista, cogliendone l'obiettivo che aveva perseguito per tutta la vita, quello, scrive, di passare per un cattivo ragazzo, giocare a esserlo, diventarlo perfino un po', per confermare che in quella posa c'è un che di vero e riuscire così a mascherare alla Andy Warhol il fatto di esserlo stato sul serio. Non fino in fondo, certo, ma pur sempre un cattivo ragazzo. Basquiat riuscì a diventare un personaggio, anzi una leggenda, il che spiega anche i prezzi siderali raggiunti dalle opere del pittore, per esempio 46 milioni di dollari per un capolavoro venduto nel 2013 a un'asta da Christie's. Fu vera gloria quello di Basquiat? Per l'artista certamente sì. Un personaggio importante nella vita di Basquiat fu la moglie, Suzanne Malouk, che ricorre spesso anche nel libro di Louise Nary, che definisce quel rapporto certamente difficile, molto diverso da quelli che avevano preceduto gli altri di Basquiat con altre donne, da tutti quelli che seguiranno, per la sua durata, scrive l'autore, per la sua intensità, per i suoi sbalzi, per i suoi continui tira e molla, per i suoi drammi incessanti. E a questa figura è dedicato il libro di Jennifer Clement, che si intitola La vedova Basquiat, lei l'autrice e la presidente dell'associazione Pen International. La vedova Basquiat, una storia d'amore, pubblicato da Electa Storie, tradotto da Andrea Vincre, 190 pagine, 18,90 euro. Oggi Suzanne ha abbandonato il mondo dell'arte, si è laureata in medicina e fa la psicoterapeuta delle dipendenze, dedicandosi in particolare agli artisti, e questo libro ricostruisce non soltanto la vita ma soprattutto il rapporto con l'artista. Quando per esempio Suzanne incontra Basquiat, questa è la sua prima impressione: sa di cuoio, pittura olio, tabacco, marijuana e ha l'odore leggermente metallico della cocaina, indossa maglioni di lana fatti a mano e lunghi poncio messicani, non va mai dritto quando cammina, procede sempre a zig zag, Suzanne rimane dietro e lo segue, si sente come una donna giapponese. In realtà con Suzanne l'artista non si sarebbe mai sposato, e il libro è una serie di brevissimi capitoli ispirati a esperienze, momenti, giornate particolari e anche opere di cui qui troviamo descritta l'origine. Un'altra vedova dal nome illustre troviamo nel libro dell'argentino Camillo Sanchez, che si intitola La vedova Van Gogh, pubblicato da Marcos e Marcos, 190 pagine e 16 euro, tradotto da Francesca Conti. Johanna Van Gogh Bonger fu la moglie non di Vincent ma del fratello Theo, che morì 6 mesi dopo, il pittore, col quale era sempre stato molto legato e che cercò anche di aiutare nel corso della sua vita sfortunata. Alla morte di Theo, Johanna rimase col figlio, che si chiamava Vincent anche lui, ritrova le 651 lettere che si erano scambiati i due fratelli, la vedova le legge per cercare di approfondire la conoscenza del marito scomparso, ma soprattutto del cognato, e ne coglie la grandezza artistica. Per esempio trova una lettera del 1888 nella quale Vincent scrive: a momenti, quando la natura è bella come in questi giorni, sento una terribile lucidità, poi mi dimentico di me stesso e il dipinto mi viene come in sogno. Nelle lettere, scrive l'autrice, Johanna scopre poesie. A un certo punto la donna fugge dall'agiata famiglia olandese per aprire una pensione, gestire il patrimonio di 200 quadri di Vincent, che riesce a rivendicare e che molti le chiedono di distruggere pensando che non siano di alcun valore. Riesce a salvaguardare questo patrimonio, anzi questo diventerà la missione della sua vita, anche grazie a una serie di mostre che la donna organizzerà in tutto il mondo, facendo conoscere a tutti anche le lettere che si erano scambiati i due fratelli. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Se mi preparo a recuperare i quadri che sono rimasti nella nostra casa di Pigalle, è per una ragione più logica che emotiva. Se sono destinati ad avere un valore in futuro, io sono la persona indicata per farli conoscere. A ogni modo, a parte Wilhelmina, nessuno dei Van Gogh sembra aver compreso la portata dell'eredità artistica del pittore. Neppure la madre ha dimostrato il benché minimo interesse. Delle tele rimaste a Breda, non sapeva che farsene. Ho sempre saputo che Van Gogh aveva sofferto quando si era reso conto di questo disprezzo per la sua arte. I quadri spettano a me e a nostro figlio più che a chiunque altro della famiglia, e comincino pure a chiamarmi con sufficienza la vedova Van Gogh. E ancora una vedova nel libro di Franco Zanelli Quarantini, Storia di Madame Opic, già vedova Baudelaire, pubblicato a Castelvecchi, 94 pagine, 12,50 euro. Caroline Opic, nata Archambault de Feuilly, fu la madre del grandissimo Charles, uno dei fondatori della poesia moderna. Caroline aveva sposato il padre del poeta, molto più anziano di lei, ne era rimasto vedova e si era risposato con un ufficiale, appunto il signor Opic, cordialmente, forse neanche tanto cordialmente, detestato dal figliastro. Il rapporto con la madre rimase conflittuale per tutta la vita, ancorché tenace. Charles Baudelaire arrivò a definire la madre un libro perpetuo, e questo libro viene qui sfogliato dall'autrice, la quale riscopre questa figura che è stata anche abbastanza trascurata dai biografi del poeta. Al figlio poeta, al grandissimo poeta, la madre non mancava di rinfracciare, per esempio in una lettera che immaginava di scrivere, queste colpe: mi schiacci coi tuoi drammi e le tue angosce, la mia vita aspirerebbe ancora ad essere serena, tu me lo impedisci ogni giorno, tu sei il coperchio che ad ogni lettera mi piomba addosso, mi imprigiona e mi toglie il respiro. Ma egli rimprovera anche i sentimenti che egli esprime nei suoi versi, anche nei confronti appunto della madre stessa, riconosce nei versi del figlio un massacro d'affetti, un disastro, un vuoto, una crudeltà. Torniamo alla moglie, anzi a un gruppo di mogli, a quattro mogli di un artista molto noto, uno dei maggiori scrittori del Novecento, Ernest Hemingway, quattro figure che popolano il libro della giovane scrittrice americana Naomi Wood e che ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo. Vedremo anzi questo libro ridotto in una miniserie con Jude Law come produttore esecutivo. Il libro si intitola Quando amavamo Hemingway, è pubblicato da De Agostini, 320 pagine, 16,90 euro, ed è tradotto da Isabella Vai. E presenta appunto l'intreccio delle vite di queste quattro mogli di Hemingway: Adelaide, Fife, Martha e Mary. Le incontriamo a partire dal 1926, quando lo scrittore è un giovane squattrinato ma affascinante, oltre che tutt'altro che prono alla fedeltà coniugale. Del resto lo stesso Hemingway a un certo punto l'avrebbe riconosciuto. Nelle parole della scrittrice: le mie quattro mogli sono state tutte risucchiate nei miei progetti in virtù del mio sorriso irresistibile. Dal 1926 quindi fino al 1961, quando Hemingway, ormai in preda all'alcol, morì, come ricorderete, per un colpo di fucile che non si sa ancora se sia partito per caso o per volontà dello stesso scrittore. Le quattro donne sono tutte a loro modo particolari, affascinanti. La costruzione del libro della Wood, che precisa di aver voluto scrivere un'opera di fantasia, ci permette di ricostruire la carriera e la straordinaria contraddittorietà della personalità dello scrittore, del quale dirà un amico: erano tutti innamorati, donne e uomini, erano ossessionati dal bisogno di piacergli. Ho visto l'ossessione in Fife, era quasi fanatismo. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di Van Gogh e allora vi segnalo di Margherita Loi e Rosetta Loi La cameretta di Van Gogh, pubblicato da Gallucci, 44 pagine, 18 euro, ed è un libro che permette anche ai lettori più giovani di accostarci alla vita e alle opere più belle dell'artista dipinte nel periodo trascorso ad Arles. Abbiamo iniziato questa puntata parlando di referendum, domenica prossima voteremo, allora vi voglio segnalare alcuni libri che vi permetteranno di affrontare gli ultimi dubbi. Innanzitutto un libro che presenta le ragioni del sì e del no attraverso due protagonisti del dibattito della vita e della cultura costituzionale italiana, cioè Valerio Nida e Luciano Violante, Perché no, perché sì, due opinioni a confronto sul referendum costituzionale, curato da Valeria Fadda per Le Chateau Edizioni, 84 pagine, 10 euro. Poi un libro di Calogero Virzì, che è un giornalista, saggista e insegnante, che ha scritto La Costituzione Italiana, confronto tra i testi del 1948 al 2016, questo è pubblicato da Trevisini, 128 pagine, 9 euro. Sul fronte del sì potete trovare di Stefano Ceccanti La transizione è quasi finita, come risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 anni prima, questo è pubblicato da Giappichelli, 120 pagine, 11 euro. Di Guido Krains e Carlo Fusaro, Aggiornare la Costituzione, storia e ragioni di una riforma, Donzelli, 274 pagine, 16 euro. Di Giovanni Guzzetta, Italia si cambia, identikit della riforma costituzionale, pubblicato da Rubettino, 206 pagine, 13 euro. E sul fronte del no troviamo, sempre pubblicato da Rubettino, ancora di Valerio Nida con Gaetano Quagliarello, Perché è saggio dire no, curato da Claudia Passa, 110 pagine, 10 euro. Di Gustavo Zagrebeschi e Francesco Pallante invece potete trovare dalla Terza Loro diranno, noi diciamo, vademecum sulle riforme costituzionali, 152 pagine, 10 euro. E infine di Salvatore Setti, Scostituzione, perché attuarla è meglio che cambiarla, Einaudi, 318 pagine, 19 euro. Prima di salutarci ricordiamo Vittorio Sermonti, che ci ha lasciato mercoledì sera, era stato anche nostro ospite, e lo ricordo con l'ultimo suo romanzo, anzi l'unico suo romanzo, che aveva pubblicato pochi mesi fa, Se avessero, era pubblicato da Garzanti, 210 pagine, 18 euro, che racconta 70 anni di storia d'Italia attraverso le vicende di una famiglia all'origine fascista, la cui storia si dipana da una misteriosa visita nel maggio del 1945. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.